Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e benvenuti alla quinta puntata dedicata alla lettura del romanzo Extenebris, un capitolo alla volta. Nella scorsa puntata vi ho parlato dell'idea iniziale di un romanzo, di come può nascere dal nulla, da uno spunto qualsiasi della nostra vita quotidiana, magari da un sogno, oppure può venire da un romanzo, da un film che abbiamo letto o visto, con un processo di similitudine o di differenza. Quando abbiamo avuto la nostra idea iniziale, dobbiamo elaborarla però. Qui le tecniche di scrittura divergono moltissimo. C'è chi dettaglia prima la trama, lasciando che i personaggi ne vengano plasmati a seconda delle necessità. C'è invece chi fa il contrario, cioè dettaglia prima i personaggi e modifica la trama tenendo conto delle loro caratteristiche. E poi ci sono tutti quelli che si trovano in mezzo con infinite tonalità di grigio. Io tendenzialmente cerco di tratteggiare i personaggi, ma non di definirli in tutto e per tutto all'inizio, lasciando spazio ai possibili approfondimenti e evoluzioni nel corso della storia, a seconda delle esigenze narrative. Alcuni dei personaggi secondari, e lo ammetto anche qualche personaggio principale, sono nati e si sono evoluti addirittura durante la stesura del romanzo. Detto questo, anche nella stesura del romanzo ci sono moltissime tecniche diverse. All'inizio mi preoccupavo molto del mio approccio poco strutturato, poi dopo la lettura del libro On Writing di Stephen King, che avevo già citato nella scorsa puntata, mi sono tranquillizzato. Non solo esistono scrittori che sono molto, poco o per nulla strutturati nello stand del romanzo, ma addirittura lui, King, il mio maestro per l'eccellenza, annovera se stesso tra questi ultimi. In sostanza, uno scrittore strutturato, e ne conosco personalmente almeno uno, non inizia a buttare giù nemmeno un rigo del romanzo finché non ha dettagliato la trama capitolo per capitolo, con situazioni, personaggi, luoghi. In sostanza, la scrittura per lui non è null'altro che descrivere nei particolari quello che ha già tratteggiato. Oserei definirlo un approccio scientifico, che invidio molto. In questa maniera è praticamente impossibile avere il cosiddetto blocco dello scrittore o incartarsi in una situazione imprevista da cui non si sa come uscire. Sono come scultori che di fronte a un pezzo di marmo sanno perfettamente dove scavare per ricavare la forma che desiderano. Io, d'altra parte, sono uno scrittore piuttosto destrutturato. All'inizio le trame dei miei romanzi sono mezza pagina, una pagina al massimo. So da dove parte la narrazione e più o meno dove vorrei che arrivasse, al massimo qualche snodo fondamentale in mezzo appena abbozzato. Qualche volta mi capita di iniziare a scrivere non la prima pagina, ma l'inizio di un capitolo successivo. Sento la trama come se fosse argilla che si modella sotto le mie mani. Qualche volta le idee mi vengono mentre sto scrivendo e allora devo riadattare la storia per inserirle, altre volte la trama mi porta da una parte inaspettata e mi fermo per giorni elaborando possibili uscite. In quei casi magari salto in avanti e inizio a scrivere il punto di vista di un altro personaggio o la storia da quando tornerà lungo la strada così come l'avevo prevista. Credo che non ci siano modi buoni o cattivi per scrivere, ma semplicemente quelli più adatti a noi, come i vestiti. Va bene, oggi sono andato abbastanza lungo. Nella prossima puntata parliamo del mondo di notturna. Ora invece passiamo alla lettura del quinto capitolo del romanzo. Un ringraziamento e un saluto agli ascoltatori di Radio Big World. Capitolo 5. 6 settembre 2012. Pensavo di potermi dimenticare tutto, di vivere la mia vita felicemente a fianco di quella che ormai considero a tutti gli effetti mia figlia. Sono anni che ho dimenticato, ho tentato di farlo, gli enigmi di Liner e i suoi accenni notturni. Ma evidentemente non è così. Questa notte ho avuto un incubo. Ho sognato notturna. Liner, anzi Linerus, come afferma di chiamarsi, era incatenato in una specie di prigione tenebrosa e mi stava parlando. Da prima non capivo, mi parlava di un segno della falce, ma le sue parole mi giungevano indistinte. Poi all'improvviso me lo sono trovato davanti, pallido come un cadavere, in vesti stracciate e con gli occhi stralunati di un pazzo. Mi ha detto che Diana sta per cambiare e che quando ciò accadrà ci sarà poco tempo prima che questi cambiamenti la uccidano. Bisognerà riportarla velocemente a Notturnia. Terrorizzato, gli ho chiesto cosa dovessi fare, ma sentivo già la sua voce allontanarsi. Mi ha parlato dei libri, dei rituali, del modo per far spalancare il varco, ma la sua voce era ormai troppo lontana. Non sono una persona che possa spaventarsi di un sogno, ma questa mattina mi ha svegliato la voce spaventata di Diana. Lei era in bagno, in pigiama, e mi diceva che le bruciava la pelle in un punto appena sotto il collo. Quando ho scoperto la parte, ho sentito il mondo crollarmi addosso. aveva sulla pelle un segno nitido a forma di mezzaluna, nero come fosse stato tracciato con l'inchiostro. Era il segno della falce. 7 settembre 2012. Il segno sulla pelle di Diana è talmente netto e perfetto da sembrare un tatuaggio, ma ho la certezza che non lo sia. La notte la sento gridare in una lingua sconosciuta, mentre in preda a orribili incubi. Qualche volta ha degli improvvisi mancamenti e delle crisi che ricordano quelle epilettiche. Temo a questo punto che tutto quello che ho tradotto dai testi di Liner sia vero, che Diana sia la figlia di una donna di un mondo diverso da questo, e che presso in lei crescerà una forza maligna che la ucciderà se non troverà il modo di salvarla. Il problema è che non so come fare ad aprire questo passaggio tra i mondi attraverso il quale Liner, o Linerus, sostiene di aver fatto transitare lei e la madre. Sono andato a leggere e rileggere i suoi appunti, e sembrano esistere due modi per farlo. Il primo è attraverso quello che viene chiamato Varco, un oggetto con poteri speciali. Credo che sia uno dei quattro libri che mi ha lasciato Linerus, quello più piccolo. Così l'aveva definito lui quando me ne aveva parlato. Ma io non so come usarlo. Il libro rimane inerte tra le mie mani. Credo che lui l'abbia lasciato per Diana, ma le circostanze devono aver impedito di affidare a lei o a me il segreto per usarlo. Il secondo modo è quello di compiere un rituale magico, come deve aver fatto Linerus. Ma lui stesso lo definisce una magia di inusitata difficoltà, e quindi preclusa a una persona priva di alcuna esperienza come me. Dopo aver fatto lunghe riflessioni, ho deciso di studiare la possibilità di evocare un essere da notturna. Dovrò tentare di ingabbiarlo con un vincolo di obbedienza, per costringerlo a mettermi in contatto con qualcuno che sappia cosa fare, magari proprio Linerus stesso, sperando che sia ancora vivo. Ho chiesto a Madame Rose di procurarmi gli antichi libri di magia nera ed evocazione. Se c'è qualcosa di questa vicenda che mi sta insegnando, è che forse non esiste nulla di impossibile o incredibile. E che quindi quelle che ritenevo ciarlatanerie e giochi di prestigio, forse sono stati tentativi compiuti nel passato di entrare in contatto con mondi diversi dal nostro. Thomas Travers non si diresse verso casa. Girovagò per ore in auto per l'intera città, senza una meta. Aveva bisogno di riflettere e, guidando, riusciva a concentrarsi meglio. Era chiaro che qualcosa di strano era successo e stava ancora succedendo. Qualcosa di talmente fuori dall'ordinario da spingere il procuratore distrettuale del distretto di Columbia a chiudere le indagini frettolosamente prima che si rifilassero un boomerang per la sua carriera. In fin dei conti, la soluzione di Bennett poteva essere anche plausibile. Nulla di straordinario, solo una serie di fatti singolari. Ma c'era stato anche il suo svenimento e il sogno. E se quel mondo che aveva percorso in sogno fosse notturno? Un sogno realistico come mai gli era accaduto prima, del resto. Lo sguardo gli cadde sul libro che Liner aveva definito il Varco. Scosse la testa. Stava scivolando lungo la china delle razionalità, avvicinandosi a conclusioni assurde, che la sua mente rifiutava. Eppure sul libro era apparsa una frase che prima non c'era. Di questo era sicuro, anche perché lo stesso Blake aveva scritto che tutte le pagine erano vuote. Era calata la sera, e nel suo girovagare Tom era arrivato nei pressi del Washington Hospital Center. Non era un caso, lo intuì. C'era qualcosa in lui che lo spingeva lì. Forse, per non farsi travolgere dall'assurdità dei suoi ragionamenti, l'unica cosa che poteva fare era trovare un aggancio con la realtà. E forse il dolore era l'ancora che gli sarebbe servita. Sarebbe andato a trovare quella povera ragazza, che ora non aveva neppure una famiglia a vegliarla. Parcheggiò e si diresse a passo svelto all'interno dell'ospedale. Non si sorprese quando vide che il poliziotto di guardia non c'era più. L'avevano fatto in fretta. La stanza era in penombra, l'unica luce proveniva dai monitor e da uno spicchio di luna che brillava beffardo fuori dalla finestra socchiusa. D'istinto Tom si avvicinò a Diana e abbassò leggermente la camicetta. Ciò che vide non lo confortò. Appena sopra lo sterno appariva molto chiaramente la falce, come l'aveva definita Liner. Anche osservandola da vicino, non sembrava affatto un tatuaggio. L'alito leggero e tiepido della ragazza lo fece rabbrividire, innescando in lui un gorgo di ricordi. Si ritrasse. «Cosa sta facendo?» La voce che arrivava dalle sue spalle lo fece trasalire. «Io volevo solo...» balbettò mentre si girava, sentendosi come un ladro colto sul fatto. «Ah, è lei!» Il dottore che aveva incontrato la mattina assieme a Bennett gli fece un gesto di saluto. «Non sarebbe orario di visita, ma vista la situazione...» «Mi scusi, quale situazione?» Aveva già sentito quel tono nelle parole di un medico e al ricordo gli si drizzavano i peli sulle braccia. «La ragazza potrebbe non passare la notte», sussurrò il dottore avvicinandosi a lui. Come per paura che lei lo potesse sentire. I suoi segnali vitali sono sempre più labili e noi ci sentiamo sempre più impotenti. Ma mettendolo in terapia d'urgenza, oppure portandolo in un altro ospedale, Tom non riusciva a trattenere il tono di panico dalle sue parole. Non servirebbe a nulla, le assicuro che qui sta ricevendo le cure migliori possibili, considerando che non abbiamo la più pallida idea di cosa abbia. Vuoi dirmi che non c'è nulla da fare? Temo di no. Il dottore scosse la testa. Ti rimango accanto stanotte, visto che non ha parenti. Non è bello essere soli quando... Tom annuì. Strinse la mano al medico che si congedò, lasciando da solo con Diana Blake nella penombra irreale della stanza. Prese una sedia e si sedette a fianco del letto. La ragazza era talmente pallida che le si poteva vedere la sottile struttura ossea attraverso la sua pelle, quasi fosse trasparente. Ma era anche molto bella ed emanava un'intensa aria di purezza. Era come avrebbe voluto che fosse Eileen alla sua età, quel miscuglio di bellezza e ingenuità che si perde durante l'adolescenza, se non prima. I grafici sui monitor erano talmente esitanti che sembrava facessero fatica a percorrere lo schermo. La ragazza potrebbe non passare la notte, aveva detto il dottore. Non sapeva se le lacrime che gli stavano riempiendo gli occhi erano per Diana Blake, oppure erano quelle che non era riuscita a versare quando gli si erano inariditi gli occhi dopo la morte di Eileen. O forse ancora erano per lui, un uomo allo sbando, senza più una famiglia, privo di un punto fisso attorno al quale far ruotare la propria esistenza. In quell'atmosfera irreale sentì la pressione del libricino nella sua tasca. E razionalmente si chiese se, forse, non era tutto molto più semplice. Immerso nelle ombre della stanza, era come in un limbo ovattato, un posto lontano dalla quotidianità, dove anche le idee più folli potevano trovare terreno fertile per mettere radici. E se il segreto del varco fosse stato il sangue? Forse bastava la linfa che scorre ignara, per scatenare il potere di quell'oggetto che Liner e Blake ritenevano magico. E, in fondo, che cosa aveva da perdere provando? Si guardò intorno, provando un cupo senso di colpa. Non c'era nessuno, nemmeno nel corridoio. Sfilò con cautela un ago dal braccio sottile di Diana e lo poggiò sulla superficie da pergamena. Trattenne il fiato, non sapendo cosa sperare. Ma non successe nulla. La goccia di sangue scivolò sulla superficie rugosa e cadde sulla coperta, senza neppure lasciare tracce sulla pagina. Tom ripeté un altro paio di volte l'esperimento, con piccole modifiche, ma senza successo. Scosse la testa, in fondo sollevato. Cosa si era aspettato che succedesse? Solo perché un pazzo aveva scritto che esisteva un mondo diverso da loro e un altro ingenuo gli aveva creduto? Diana Blake aveva una malattia incurabile, tutto qui. Nessun misterioso potere oscuro che le cresceva dentro. Accese la lampada sopra il letto per dissipare l'atmosfera cupa che si era creata nella stanza e nel suo animo. Strinse la mano della ragazza. Fatti coraggio, bambina. Un soffio gelido scivolò sul viso di Thomas Travers. Aprì gli occhi con una netta sensazione che ci fosse qualcosa di maligno accanto a lui. La tenue luce del neon sopra la testa di Diana tremava. L'istinto lo portò ad avvicinarsi al letto della ragazza, mentre un lezzo insopportabile cominciò a esalare da chissà dove. Si accostò a Diana e l'abbracciò. Un rantolo bestiale emerse dal nulla e spezzò il silenzio. Diana socchiuse gli occhi senza riprendere i sensi. Il rantolo crebbe, cupo, profondo, cavernoso. Tom non si domandò neppure più come fosse possibile che il buio ruggisse, che le tenebre congelassero e solidificassero, che nessuno sentisse nulla in un ospedale dove c'erano centinaia di persone. Si strinse a Diana e il suo sguardo saettò a destra e a sinistra, incapace di scorgere ciò che tutto il suo essere percepiva con una chiarezza sovrumana. Le ombre cominciarono ad agitarsi. Tom sentì che l'unica protezione era la luce, la tenue luce tremula del neon sopra di loro. Abbracciò Diana con ancora maggior forza e cercò di far entrare tutti e due nella esile pozza di luminosità, che si affievoliva sempre più. Una zampa enorme spuntò dal nulla e lo afferrò per la camicia, scagliandolo contro la parete, un paio di metri più in là. L'urto gli tolse il fiato e il dolore improvviso alla schiena lo inchiodò a terra per qualche istante. Alzò gli occhi e vide un essere da incubo, ben più alto di lui, con un muso bestiale e occhi fiammeggianti, allungare le mani artigliate verso Diana. Il mostro esitò solo un istante, nei suoi occhi maligni sembrò passare un'ombra di timore. Tom si alzò in piedi e scattò verso di lui. Un istinto che non sapeva neppure di possedere gli fece afferrare una bottiglia d'acqua sul tavolino accanto al letto. La frantumò sul muso dell'essere e fu come romperla su un blocco di travertino. Usò il collo spaccato come un'arma per lacerare le carni del demone, ma il vetro si spezzò e le schegge schizzarono sul suo viso, tagliandolo. L'essere diruggì il suo odio, alitando su di lui il fetore di 1000 cadaveri in putrefazione. Lo colpì con la sua zampa artigliata, cogliendolo in pieno petto. Tom volò via con la pelle del torace solcata da profondi segni rosso-porpora, che ruscellavano sangue sulla camicia. Mentre lui rimaneva senza fiato, immerso nel dolore più acuto che avesse mai provato, vide con orrore che la zampa artigliata stava affondando nel ventre di Diana. Il suo sguardo cadde sul varco. Il libricino, sporco del suo sangue, era scivolato dalla sua tasca e si era aperto cadendo a terra. Una nuova scritta risplendeva di carmine nel buio. la seconda per salvare la nera. Tom intuì in un lampo qual era il segreto del varco. Si fece forza per superare il dolore intenso e si gettò sul letto dove il demone stava finendo Diana. Era l'unico modo. L'odio del demone era tangibile come le sue zanne, ma il suo ruggito svanì mentre precipitavano nell'abisso.